dove sei la fantasia, la nostalgia, la mia mania, i miei occhi turbati dal sole, dal vento, il tuo viso sereno mi incanta, che mancanza mi fai. Ti vado per sempre per me, ho già sentito davanti, non posso più vivere così, per me tu sei sempre il primo amore. Dove sei? Io sempre qui, innamorata ancora sì, cantare per non morire, illudermi per non soffrire, parole, colore della vita, sempre, sempre per te. Cantare per non morire.